Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qui, buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, da questo assolatissimo Milano, in diretta, in studio. Ah, siamo a Milano, pensavo di essere a Pyongyang, in Corea del Nord. Good morning Pyongyang. Good morning Vietnam, verrebbe il caso di dire. Avete capito che a fianco me qui c'è Carlo Alberto Carnevale Maffè e è collegato con noi l'altro compare Mario. Mario, ci sei? Eccoci, buongiorno a tutti. Mario Seminerio, più tardi ci raggiunge Renato Cifarelli. Dicevo, sembra good morning Vietnam perché il caso vuole che, l'avevamo del resto previsto, metà della trasmissione sarà dedicata a quella, siamo nelle immediate ore successive e di questo parleremo. Quindi, cari clienti delle due banche venete, azionisti, bondholders, quant'altro, se volete chiamateci 800 24 00 24, perché è ovvio che è un bel pezzo della trasmissione sarà dedicato a capire come siamo arrivati in questa successione di proposte romanzesche da parte dei regolatori italiani oggi è vero. A inneggiare alla liquidazione coatta amministrativa. Da ieri sera il Single Resolution Board e la BCE dicono che queste due banche sono praticamente fallite o sul punto di fallire, non hanno rilevanza sistemica, quindi vedetevela con le vostre procedure nazionali, cioè la liquidazione coatta amministrativa. Come ci siamo arrivati? Perché giusto così bisogna inneggiare? È davvero come scrive oggi titolo di apertura di Repubblica, via al salvataggio? La liquidazione coatta è un salvataggio? E come mai l'Italia inneggia al fatto che la liquidazione coatta, che massimizza gli oneri per il contribuente, è meglio di tutte le altre strade? Ma comunque, insomma, noi vi daremo la nostra opinione su questo e lo faremo con rispetto, perché è ben lungi dall'essere chiusa la partita, la liquidazione coatta amministrativa ha procedure che sono tutt'altro diverse dal fatto che c'è una banca intesa che si sceglie gli asset, non è così. O si scrive addirittura i decreti, perché a questo punto siamo a questo livello, cade sasse il nuovo Parlamento. Di questo parleremo, telefonatoci all'800 24 00 24, poi faremo una riflessione su un altro tema uscito questa settimana: qual è l'effetto del welfare, cioè dell'intervento e delle distribuzioni pubbliche in tutte le sue forme, fiscale, previdenziale, gli 80 euro sui redditi degli italiani dopo l'intervento dello Stato? È vero che si sta meglio per chi ha meno, cioè diminuisce l'indice di Gini, oppure in realtà abbiamo un welfare che interviene molto onerosamente, non è ben mirato sulle esigenze di chi ha meno? Ecco, sarà con noi il professor Luca Presenti della Cattolica, parleremo anche di questo. Naturalmente faremo anche accenni ad altre cose rilevanti iniziate in questa settimana, avvenute in questa settimana, visto che la settimana era cominciata proprio con una ricostruzione, diciamo anche questa abbastanza singolare, della cosiddetta spending review da parte di Joram Gutgeld, che ne è responsabile. E con questo poi cominceremo con la nostra rubrica, come al solito tra pochissimo, quella di Mario Seminerio. Ma rapidissimo giro tra i compari, cominciando proprio da Mario: che altro aggiungiamo al menù con qualche considerazione al volo di settimana? Ma io veramente ho proprio poco, perché è stata una settimana pressoché monopolizzata dai temi che svilupperemo durante la puntata. Volevo solamente far notare questa mattina che si legge sui giornali che il governatore del Veneto Luca Zaia si preoccupa del destino dei dipendenti, ma anche degli azionisti delle due popolari venete. Degli azionisti di due banche messe in liquidazione. Di due banche messe in liquidazione per volontà del governo. Questo dimostra in maniera abbastanza inequivocabile che questo è un paese sommatoria di più pulsioni socialiste corporative, dove ognuno strattona dalla propria parte una coperta che è sempre più corta. Il risultato sarà il dissesto. che è già sotto i nostri occhi, perché questi non saranno 10 miliardi, ma saranno molti di più. E quindi io direi che forse è meglio evolvere verso il federalismo, perché in quel modo ciascuno si tiene i propri incapaci, i propri delinquenti, i propri parassiti, e alla fine si vede chi è stato il meno peggiore. In effetti devo dire che chi ha detto ma perché Intesa, se li compri la regione Veneto gli asset a 1,50 euro delle due banche, io aggiungo un'osservazione invece che oggi trovate solo su Repubblica, il mio applauso non al titolo relativo alle banche ma a questa notizia che trovate con le pagine di Economia di Repubblica, perché Ruffini, il capo di Equitalia, ente economico privato, ente economico pubblico, ma insomma in forma privata, che viene messo nel perimetro invece dell'Agenzia delle Entrate, tutto pubblico, e cui capo diventa capo di Agenzia delle Entrate, si deve misurare con una bocciatura della Corte dei Conti, che è inevitabile in un paese che vuole rispettare la legge. Questa nomina fa a pugni con il fatto che c'è un limite temporale giustamente previsto nelle nostre norme, per le quali se sei alla testa di un ente di diritto privato che è finanziato da quello a cui ti nominano, devono essere passati almeno 2 anni prima che puoi passare dalla testa di quello da cui dell'ente che riceveva i soldi a quello che te li dava. Ecco, una norma elementare, naturalmente ignorata nella nomina di Ruffini. Vedremo adesso che cosa si inventeranno per aggirarla, perché come ovvio le leggi ci sono in generale, ma per gli amici si interpretano. Questo è l'apparato tributario che ci fa sempre lezioni. Che dici, Carlo Alberto, di tuo? Dico che per spiegare meglio i titoli dei giornali stamattina, direi di vaga impostazione sovietica, posso provare a ricorrere a un decreto del governo che nella manovrina ha introdotto una cosa straordinaria. Ha di fatto defiscalizzato, ha introdotto un credito d'imposta pari al 75%, anzi fino al 90%, nel caso in cui le imprese facciano investimenti pubblicitari sulla stampa periodica e quotidiana in misura incrementale rispetto agli stessi mezzi di informazione dell'anno scorso. Sostanzialmente, traduco in italiano, se il supermercato sotto casa fa un po' più di pubblicità del tonno in scatola sul quotidiano locale, può dedurre questo dal credito d'imposta. Il governo di fatto cosa sta facendo? Sta finanziando la pubblicità sulla stampa in senso, cioè quindi sulla carta. Solo sulla carta. Sulla carta. Almeno questa è l'interpretazione, c'è scritto stampa, quindi quando il mercato della stampa quotidiana, dal punto di vista pubblicitario, è crollato di quasi il 50% in questi ultimi anni, cosa fa il governo? Sostanzialmente sussidia un modello di comunicazione vecchio e ormai non preferito dalle imprese e dai consumatori. Chissà come. Secondo te, Oscar, c'è una spiegazione possibile? Certo, a tutto questo? Il governo investe i soldi dei contribuenti e fa un investimento che assicura riconoscenza da parte degli editori e che viene e ripagata, vedo stamattina, in quindi, gran quantità. Quando ci dite, ci criticate tutti, ma non i giornalisti, eccoci qua. Come vedete, siamo in prima fila. Ma una cosa che non piace agli editori, che venga sottolineata da quindi parte. Stiamo nostra. Defiscalizzando la pubblicità incrementale sulla stampa. Solo 2017 questo paese sta sussidiando la stampa cartacea dei giornali, chiedendo agli imprenditori e alle piccole imprese di investire più in pubblicità tabellare. Signori, il futuro è davanti a noi. Allora, torniamo tra un minuto e cominciamo con la rubrica di Mario. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non vi preoccupare. Questo è, ve ne è esposto da lunedì mattina su tutte le sedi della Vicenza e Veneto Banca. Non è un commento improprio, liquidazione coatta amministrativa indicata e preferita dalle autorità italiane come la via preferenziale migliore, quella, ma basta Europa, ma cosa vuoi? Però detto questo, la settimana è cominciata con un resoconto ufficiale, formale, con cifre riprodotte da tutti i giornali italiani, con rarissime eccezioni chi ha avuto qualcuno da eccepire, sui 30, anzi gli oltre 60 miliardi di spesa pubblica risparmiata grazie alla spending review. Mi duole dirlo, ci sono cascati in pieno anche il Financial Times e il Wall Street Journal. Allora Mario, Esatto, sì, sì, ci sono cascati in pieno con i loro corrispondenti da Roma, il che mi fa pensare che l'aria di Roma non faccia molto bene anche a esponenti del giornalismo anglosassone, diciamo, tende a rammollirli e a fargli perdere il senso logico. Ma Joram Gutgeld, che è responsabile della Spending Review, ha presentato questi numeri esattamente come aveva fatto lo scorso anno, ma quest'anno in una cornice solenne. Lo scorso anno il risparmio di spesa era 25 miliardi, quest'anno è salito a 30, sono dati cumulati e incrementali. Lo scorso anno, quando si scoprì che questi 25 miliardi avevano determinato in realtà un risparmio netto di spesa pubblica di 360 milioni, di cui 320 di spesa in conto capitale, Gutgeld rispose dicendo che non si trattava di un vero taglio, ma di una riallocazione in modalità più efficiente della spesa pubblica. E poi naturalmente si rifugiò nella solita, diciamo, tecnica dialettica di dire che sono gli 80 euro praticamente, che sono in realtà non sono un aumento di spesa, ma sono un taglio d'imposta, per cui vanno contemporaneamente sottratti alle spese, ma sottratti anche alle entrate, il che indica che probabilmente Gutgeld ha studiato la partita doppia in un universo parallelo, perché sottrae a destra e a sinistra delle due colonne. Quest'anno non è cambiato assolutamente nulla, perché Gutgeld ha preso la cifra, ha reiterato i concetti e l'ha aumentata della misura che era necessario aumentare, solo che quest'anno con maggiore, come dire, correttezza e linearità ha specificato dove sarebbero andati gli impieghi di queste fonti, cioè noi abbiamo fatto questi risparmi e adesso li impieghiamo in che cosa? Beh, riduzione del deficit dal 3 al 2,1%, che non so cosa c'entri, visto che è una conseguenza anche della crescita economica, oltre che del crollo del costo degli interessi sul nostro debito, che chiaramente resta fuori dal perimetro della spesa primaria. Poi ha citato la riduzione della pressione fiscale, ma anche in questo caso la riduzione della pressione fiscale si ottiene perché spostando gli 80 euro da spesa a minori tasse, per cui more of the same. E poi ha citato l'ampliamento e l'ammodernamento dei servizi pubblici alla voce prestazioni sociali per 12,7 miliardi, di cui però ce ne sono 10 che sono relativi ancora una volta agli 80 euro. Però al di là di tutto questo, al di là di tutto questo, al di là degli sfondoni veramente molto italiani dei corrispondenti della stampa estera anglosassoni, Gutgeld ha detto anche delle cose successivamente che secondo me sono condivisibili, nel senso che ha detto che probabilmente abbiamo raggiunto il massimo livello di incisione della spesa pubblica primaria, e questa è una considerazione interessante, perché se noi accettiamo questo concetto vuol dire che se vogliamo ridurre la spesa dobbiamo agire sul perimetro dello Stato. E questo noi lo diciamo da molto tempo anche sulla falsariga delle osservazioni annuali della Corte dei Conti. Poi Gutgeld ha detto, per quanto riguarda i confronti con gli altri paesi europei, noi abbiamo la spesa per interessi che ci porta via il 4% del PIL contro una media dell'Eurozona che è intorno al 2-2,5%, ma soprattutto abbiamo una spesa pensionistica che ci porta via il 16% del PIL contro valori tedeschi, britannici, olandesi, svedesi, siano intorno all'11-12% e la Francia, che non se la passa molto bene, al 14%. Quindi io temo che ci saranno delle difficoltà oggettive a ridurre la spesa e per questa via a liberare spazi di manovra per ridurre le imposte. Questo è oggettivo, questa è la parte del ragionamento di Gutgeld che mi sento di sottoscrivere, al netto di quelli che sono giochetti contabili che sono frutto, non dico di disperazione, ma di seria preoccupazione. Quindi noi siamo praticamente prossimi al capolinea dell'intervento dello Stato nell'economia e nella vita quotidiana dei cittadini. E il fatto che adesso noi metteremo sul debito pubblico altri 10, 12, 15 miliardi per il salvataggio delle venete, altri 6 o 7 per il Monte Paschi, sia pure con modalità differenti, e probabilmente altro in futuro per altri istituti di credito che in questo momento sono usciti dal nostro radar, ma in realtà sono molto presenti, non farà altro che aumentare il nostro debito PIL e ci costringe a crescere. Quindi io non starei molto tranquillo, al di là dei toni trionfalistici che fanno parte delle regole del gioco di un paese che vive di illusioni ottiche e autoinganni. Poi, se posso citare rapidamente un'altra cosa singolare che è successa nell'economia europea questa settimana, è che è stata la terza revisione del PIL francese del primo trimestre, che è stata ulteriormente al rialzo. Quindi i francesi sono passati da più 0,3 a più 0,4 a più 0,5. Quindi c'è qualcosa di specifico o statisticamente o nella realtà alla crescita dell'eurozona che indica una discreta accelerazione della congiuntura o un problema statistico. Questo lo scopriremo soltanto nel mese di settembre, quando avremo i dati del secondo trimestre. Interessante. E infatti, nel frattempo c'è stata anche la revisione al rialzo delle stime di crescita italiana. Abbiamo appreso questa settimana che il nord-est sui conti rivisti territoriali del 2016, che è tornato il traino. Ieri con il professor Gubito ho approfondito proprio questo. E ci sono dinamiche interessanti. Il sud non se la cava malissimo. No, è tornato in media, quindi insomma delle cose interessanti. Al di là di questo, l'altro dato europeo di questa settimana, secondo me, sono gli aggiornamenti degli andamenti britannici, che fanno capire a un anno esatto, ieri era un anno esatto del referendum sulla Brexit, tempo perso, schema sempre più confusionario di come avviare il biennio di trattative, si è visto al primo tavolo formale in cui la May ha iniziato arretrando paurosamente e si sentirà sempre dire che non è abbastanza. Però Mario, se uno va a vedere gli andamenti dell'inflazione, stima andamento salari reali eccetera eccetera, capisce senza far propaganda, che in realtà la Brexit inizia a esercitare effetti concreti sull'economia britannica. Che dici? Sì, assolutamente. Cioè, a parte l'aumento di inflazione causato dal deprezzamento della sterlina, a parte, diciamo, situazioni di altra natura, ci sarà un congelamento degli investimenti esteri in attesa di capirne di più. Esatto. Poi stanno già litigando nell'ambito del Comitato di Politica Monetaria della Bank of England se sono dietro la curva, avanti la curva o in pareggio con la curva. Sì, se per poi parliamo di salari reali, vogliamo dire che l'Inghilterra, anzi la Gran Bretagna, ha avuto il record negativo insieme alla Grecia dei salari reali cresciuti. Salari reali, vuol dire, giusto per capire, i soldi in tasca alla gente che servono a comprare le cose per vivere tutti i giorni, altrimenti non si capisce il concetto. Esatto. Meno 10% negli ultimi 6-7 anni, no, è un dato gravissimo. Che era poi anche la risposta a quelle che dicevano che è solo l'euro che funziona attraverso la deflazione interna. Vabbè, per chi non è capace. Sono rimasti lo dico perché è opportuno dirlo. Io devo dire che ho trovato l'aggiunta anche delle dichiarazioni di Guttgeld, a cui faceva riferimento Mario, molto significativa, perché nell'aggiunta poi Guttgeld, di cui si parla alla testa della Consip, dice: io sono perché il deficit non scenda ulteriormente, smettiamola con questa storia europea. Cioè, il profilo, si può essere d'accordo o meno, io non sono d'accordo, il profilo che emerge mettendo in fila l'atteggiamento europeo su deficit e debito pubblico, l'atteggiamento formalizzato in qualche modo dal governo, cioè il fiscal compact deve essere rivisto integralmente, altro che assumerlo nei trattati questa settimana, l'atteggiamento dei regolatori italiani, governo e Banca d'Italia, nel preferire la liquidazione coatta amministrativa, ci arriveremo tra pochi minuti, alle regole della Banking Union Europea che dicono no, bisogna limitare il più possibile che gli interventi sulle banche al caos siano a carico del bilancio dello Stato, cioè dei contribuenti. Noi preferiamo la parte opposta invece, noi scegliamo, preferiamo, facciamo scrivere ai giornali che questo è molto meglio, è tutto l'indirizzo che si riconduce alle parole di Guttgeld, cioè l'idea è più deficit, perché l'Italia è più, pensa che questa sia la vera strada da battere per una crescita più sicura, più discrezionalità politica, come ovvio, e nei regolatori è chiaro che è questa la cosa che preferiscono nelle banche, perché stanno conducendo una battaglia, e si capisce da come si vede sui giornali, perché la BRD venga travolta in buona sostanza, perché strappa dalle mani della politica e del regolatore bancario italiano la discrezionalità. Certo. Questo è il punto di fondo. E questa cosa si vede anche nelle parole pronunciate da Gutiérrez, che riesce a far scrivere a grandi quotidiani risparmiati 60 miliardi e viene, ahimè, amaramente da ridere. E dall'altra parte dice: il mio compito non solo non è quello di produrre risparmi reali di spesa corrente, vi dico che noi dobbiamo continuare a fare deficit e fregarcene dell'obiettivo a medio termine, che è quello di arrivare al pareggio, cioè all'abbattimento del deficit. Fregarcene, perché è meglio continuare a farlo. Ieri sera ci hanno scandalizziamo. Dato un bel esempio, io penso che a un certo giorno dovremo prendere atto che siamo minoranza assoluta, che comandano loro, che questo è il mantra della politica italiana. Gli effetti, noi continueremo semplicemente a raccontare gli effetti di tutto questo, ecco, perché non è che si può pensare di scomunicare chi poi esercita ma il potere. No, anzi, se posso parafrasare un mio amico che si lancia ogni tanto in invettive un po' bizzarre: ancora, ancora, ancora, fateci più deficit. Guarda, ieri sera abbiamo speso l'equivalente di due ponti sullo stretto di Messina e ce li siamo bombardati in 24 ore, perché finisce che spendiamo 15-20 miliardi con questa storia qui delle Venete, caro esatto. Oscar. Mamma mia. Allora, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Oscar, però diciamoci, fammi dire, l'inno che abbiamo scelto è "Fino alla morte l'Italia pagò", mi sembra così. Criticavano, ma siamo stati profeti tre anni fa, non direi, siamo facili profeti. Ecco, siamo interpreti banali di una cosa che non amano dire tutti quelli che sono proni ai regolatori, alla politica italiana. Mia personalissima, io dico solo questo, poi parleremo tutti a rotazione, però mia personalissima classifica, non richiesta, un po' antipatica come sempre sono le classifiche, però io segnalo dal mio punto di vista che la stampa di Torino oggi è quella che ho preferito, perché la stampa, oltre a spiegare bene con un pezzo di Alessandro Barbera, manca ancora l'intesa con l'Unione Europea, e Alessandro Barbera spiega, e ve lo spiegheremo anche noi, su che cosa la stampa si pone intanto il problema di raccontare a tutti i suoi lettori, esatto, sei il custa, quanto sei il custa abbiamo finora speso 31 miliardi per poche banchette, nel senso che la Spagna tra un po' con una cifra di poco superiore ha messo a posto tutto il sistema. Noi con 31 miliardi fino a questo momento, tra totale di risorse dilapodate del sistema bancario, dello Stato, lo Stato più della metà, e degli obbligazionisti, per arrivare a preferire la liquidazione coatta amministrativa per le due venete. E che fino a pochi giorni fa era, come dire, la dannazione assoluta, uno scenario drammatico. Ricordo che, ti ricordi Viola, smentito da noi, che diceva: se vai in liquidazione, vi ricordate che siamo stati gli unici a smentirlo? E lui dire: no, veramente ho sbagliato, mi riferivo, parlavo della risoluzione, ma mi in realtà del rientro di tutti i crediti in bonis. Beh, ma dobbiamo ancora vederlo, signori. A regime vigente, comunque, le banche sono in liquidazione, anzi vanno messe in liquidazione. Allora, la stampa, devo dire, il Corriere della Sera, idem, io spezzo una lancia, perché Federico Fubini, il vice direttore, spiega almeno quello che la gran parte dei giornali, ci sono alcuni giornali che invece presentano l'operazione come già chiusa con intesa, il Messaggero per esempio fa così. Allora, nel pezzo di Federico Fubini c'è scritto, ci sono qui due strade. Se davvero devono fare una liquidazione coatta amministrativa, deve succedere questo, questo, questo, questo, questo, cioè non è perseguibile l'accordo con intesa ad hoc che si sceglie gli asset, no? Perché spieghiamolo, caro Alberto, in che cosa consiste la liquidazione coatta amministrativa? Consiste a nome di un commissario che, diciamo, d'accordo con il Consiglio di Sorveglianza e col giudice di riferimento, prende gli atti per tutelare al massimo i creditori, mettendo all'asta pubblica e trasparente gli attivi, certamente non vendendoli agli amici telefonati il giorno prima per mettersi d'accordo. Perché il criterio deve essere quello del maggior realizzo possibile, per coprire naturalmente i buchi parlarci con un linguaggio non tecnico. Ciò detto, azionisti e obbligazionisti subordinati sono già stati di fatto cancellati con la comunicazione del Single Resolution Board ieri sera, dal punto di vista reale. Ma l'avete detto a Zaia, sì. Ecco, gli mandiamo un SMS. Nell'indicare che comunque si applica, come ovvio, il burden sharing, cioè gli azionisti azzerati, e quantomeno i junior azzerati all'inizio, poi vediamo se con il recupero sarà necessario arrivare anche a toccare pro rata i senior, che il governo ha sempre detto e ha fatto mettere per iscritto ieri nel comunicato delle banche venete, e ha ripetuto ieri il governo che i senior non li toccherà né ora né mai. Come fa a dirlo, visto che non sa quanto recupera, se seguono la via della liquidazione coatta amministrativa? Quindi non è possibile l'accordo con Intesa, che si sceglie gli asset, che dice mi dovete dare pure i soldi perché non abbia oltretutto un impatto sui miei coefficienti patrimoniali, che significa che bisogna dargli 4 miliardi tra una cosa e l'altra. Trasferimento statale è una delle banche più sane del paese. Però il Corriere della Sera, nell'articolo di Federico Fubini, dice chiaramente, da quello che abbiamo capito, cioè, siamo umili, dice lui, inutile che continuiamo qua a invocare conoscenze di norme che, come vedete, di volta in volta cambiano, nel senso che si riesce ad applicarle ognuno a suo modo. Se si interviene con la liquidazione coatta, altro che opzione di Intesa, il fondo di garanzia deve immediatamente intervenire e deve a quel punto rifondere i depositi fino a 100.000 euro, la parte giorni. Superiore. Pare che ci sia un terzo dei depositi ancora attuali nelle due banche venete, cioè su 24 miliardi un terzo dei conti avrebbero ancora più di 100.000 euro. Ma è possibile che non l'avete capito, cari amici depositari? Questa è una cosa che veramente mi ha fatto. Allora, dovrebbe intervenire il fondo, ridare fino a 100.000 ai depositanti, lui essere l'interlocutore a quel punto della parte di passivo rappresentata dai depositi, e andare avanti con una procedura di liquidazione che dura anni. Allora, sentiamo ma Fabio, dice dai. Federico, guardate che però con ogni probabilità niente di tutto questo vedrete nel decreto che oggi esce dal governo, perché qui si vuole chiudere con Intesa, lei si sceglie gli asset, c'è un problema aperto, perché il problema aperto è che è vero che le autorità europee hanno detto procedete con la via nazionale perché non sono sistemiche, sono sul punto di fallire ma non sono sistemiche, però vale comunque il burden sharing. Uno, due, attenti, perché va bene che voi preferite gli aiuti di Stato per coprire le sopravvenienze negative una volta che avrete liquidato il liquidabile a prezzo di mercato, ma attenti, perché c'è un accesso d'aiuto di Stato su cui comunque siamo competenti noi. Esatto. Mentre la normativa prevede la minimizzazione dell'aiuto di Stato per evitare quello che si chiama l'azzardo morale, cioè di favorire i furbacchioni che hanno investito in obbligazioni di Veneto Banca, magari sussidiati dal management, e che adesso vedono tutelati perfettamente i loro crediti, allora, imbarba noi tutti che paghiamo il conto. Sentiamo adesso come la pensate voi, poi andiamo al nostro ospite, perché in tutto questo nessuno ha fatto i conti, ma questo lo toccherà il nostro ospite, che intanto saluto, Fabio Bolognini, consulente finanziario delle piccole e medie imprese, autore di un blog che consiglio a tutti di leggere, Imprese più Finanza, del libro Gestire le banche e il credito di Franco Angeli. E Fabio Bolognini fin dall'inizio ha detto guardate che qui c'è una parte che riguarda i crediti non ancora deteriorati di imprese che sono vive. Possibile che a nessuno interessi nulla questa faccenda qua? Ecco, intanto Fabio, grazie di essere con noi stamattina. Grazie Oscar, grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, Mario, intanto tu che opinione dai di come siamo arrivati alle pronunce ieri BCE e Single Resolution Board? Ma io ho come l'impressione che alla fine, per sfinimento, la BCE abbia accettato la richiesta italiana di pronunciare il dissesto delle due venete, perché cioè, fino al mese scorso erano viable, cioè erano vitali e funzionanti, no? Il fatto stesso che il governo italiano è oltre un anno che sta cercando di far passare il concetto che le due venete erano too big to fail, o comunque erano sistemiche, e adesso si evolve verso la liquidazione, che in realtà è un bailout, certo, travestito da altro, mi sembra sinceramente sconcertante. Oh, ma vogliamo dire, qui litighiamo con Oscar, vogliamo dire che le autorità europee si sono prestate a un gioco veramente scandaloso, sia perché hanno ritardato la dichiarazione di insolvenza che probabilmente andava fatta molto prima, sia perché pilatescamente l'SRB pilatescamente ha detto un non sequitur perfetto in termini logici, cioè siccome il business plan è ridicolo, siccome le banche non stanno in piedi, allora non le mandiamo in risoluzione. Fatemi capire, allora evidentemente ovviamente qui la logica sull'Elba funziona in maniera diversa. Io trovo che la figuraccia prima l'abbiano fatta, mi dispiace, la Banca Centrale Europea e Single Resolution Board, che sono giocati un gran pezzo di credibilità. Mi spiace, però, ma questo è quello che penso. Ma è maggiore, cioè è maggiore la figuraccia rispetto ai regolatori italiani che hanno insistito dicendo che non c'era problema, che erano sistemiche, che andavano fuse senza perdere tempo a presentare i piani stand alone, che i nostri sono imbattibili, ovviamente. I nostri sono imbattibili per arrivare a dire di preferire una cosa che è l'esatto opposto di quello sempre detto e che, come ricordava Mario fino a due settimane fa, Viola dipingeva come la morte nera. Io trovo che siamo un paese così. Mario, tu che dici? No, ma anch'io sono abbastanza sconcertato, però se posso, prima non voglio sottrarre tempo a Fabio, che è sicuramente lo specialista, però parliamo un attimo della stampa, parliamo dell'igiene nella comunicazione, perché si continua, da quando questa vicenda è esplosa, cioè da 48 ore, a dire che, a fare dei parallelismi assurdi tra il ruolo di Intesa e quello di Santander, e addirittura stamattina nel pezzo dello stesso Fubini di UBI, hanno comprato le banche in dissesto per un euro. Si omette di dire UBI, che invece, oltre all'euro ci sono dietro mega aumenti di capitale. Si omette di dire che Santander si accolla il contenzioso integrale di Popular, mentre giustamente tra virgolette dal suo punto di vista scritto nel comunicato: non vogliamo accollarci i rapporti legali non funzionali, che è un meraviglioso eufemismo. Bravi, se mi passi, bravi, sì, geniali, geniali. Quindi io vorrei invitare i giornalisti italiani tutti, siate gentili, ve lo dico da lettore, ve lo dico da abbonato del Corriere della Sera, caro Fubini, che sta battagliando con me da questa mattina su Twitter, ad avere maggiore precisione semantica e fattuale, perché il parallelismo tra Intesa, che coglie fior da fiore, e il Santander, che dopo il burden sharing si porta a casa una banca e la ricapitalizza per 7 miliardi, semplicemente non esiste. Continuare a dire hanno pagato un euro, e magari qualche settimana fa uscirsene dicendo hanno avuto un regalo dall'Unione Europea. Eh sì, un regalo. L'informazione non funziona così. E compariamo anche il governo spagnolo con quello italiano. Il governo spagnolo festeggiava il fatto che non ci fossero soldi pubblici. Andiamo al punto sollevato da solo da Fabio Bolognini quando giorni fa ha scritto. Lui ha parlato delle, tra virgolette, imprese sperdute. Cioè, tutti si riempiono la bocca dell'economia reale, ma in questa vicenda qua ce n'è un pezzo che sembra non interessare a nessuno. È così, Bolognini? Sì, Oscar, tu sai che diciamo, sul blog io sono un cantastorie, no? Quindi racconto spesso spiegando il passato e qualche volta dentro ci sono, diciamo, le pillole, le previsioni del futuro. Il passato io l'ho spiegato più volte, per anni, dal 2011 al 2015 è stato concesso a Zonin e anche a Veneto Banca di fare di tutto e di più. Dopo ci sono succeduti una serie di eventi che alla fine erano improntati tutti a cercare di far credere che in Italia le banche non possono fallire, l'esito a questo punto è dichiarato, è scontato e il sistema in generale, il sistema bancario, che non ha avuto il coraggio di isolare queste due banche che notoriamente facevano delle cose che non andavano fatte, oggi si trova esattamente con un pugno di sabbia in mano. Nel futuro quello che io vedo, quello che temo, è questa scelta di Intesa, no? Di prelevare solamente gli attivi buoni, che nel caso di queste due banche quindi sono prestiti in bonis con una gradazione di rischio tollerabile, accettabile per l'impresa, ecco, questo significa lasciare fuori tutta una serie di rapporti bancari con imprese spesso molto piccole, perché comunque lasciare fuori vuol dire far rischiare rientro, Fabio, specifichiamo. No, perché sì, cioè, diciamo che io non sono ancora in grado di dire cosa succederà, però l'ha detto Viola l'altro giorno, ha detto rischiano rientro, come minimo perdono l'interlocutore, come minimo non possono certamente dialogare per avere qualcosa in più se servisse o per stabilire come rientrare più lentamente, oppure rischiano di essere chiamate a restituire i soldi. Questo a me sembra un problema concreto, altro forse che. Più grave dei depositanti sotto i 100.000 euro, che comunque sono tutelati. Sono, no? Tutelati, cioè, esattamente. Il governo oggi si esprime nei termini di tutela del risparmio, come dice la Costituzione, ma forse una tutela anche del lavoro. Queste sono imprese che danno lavoro a tantissime persone. Ecco, questo io me lo aspetto che divenga un problema, e resto un po' perplesso nel vedere che le organizzazioni come Confindustria o Confartigianato sono piuttosto silenziose su questo tema. Anzi, le ultime 24 ore Confindustria ha abbracciato la tesi d'intesa, ufficialmente il suo presidente, presidenti locali e territoriali, dicendo che è l'unica alternativa. Noi ci limitiamo a dire che la soluzione legale che è imboccata non è compatibile con la proposta di intesa. Le procedure sono completamente diverse. Vedremo cosa scrive nel decreto del governo. Attenti a fare altri pasticci nel decreto del governo che arriva. Riprendiamo tra un minuto. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Eccoci qui, tornati a parlare delle banche venete. Ieri la pronuncia della BCE e del Single Resolution Board: non sono sistemiche, sono fallite o sul punto di fallire, e quindi non sono affatto solvibili, niente aumento di capitale precauzionale, il contrario esatto di ciò che è predicato dal governo. Ma sorpresa, il governo e la Banca d'Italia sono felici di sentire tutto questo e dire liquidazione quota amministrativa. E la stampa a coro dice: secondo, salvataggio, grande, però, è il fallimento di maggior successo della storia. Però che la scoperta, che se andiamo a rispolverare i precedenti, che ci sono ovviamente, non numerosi, ma ci sono, di liquidazione coatta amministrativa, ecco che l'idea di chiudere con intesa, alle condizioni di intesa, che lo Stato gli dia 4 miliardi perché sceglie lei asset per i quali, per il coefficiente di capitale di assorbimento aggiuntivo, no, per pareggiarne il rilevarli, deve essere lo Stato a pensarci, uno, due, per il fatto che se risceglie lei, non esiste tutto questo, a meno che ci daranno una via diversa e nuova, scopriremo la via nazionale nuova di come una liquidazione coatta amministrativa stia in piedi con questa scelta, che in realtà per metà è un piacerone a Banca Intesa, che deve recuperare i soldi bruciati in Atlante, e gli altri che ce li hanno bruciati perché non li devono recuperare? E per l'altra metà è la scelta che paghi il contribuente, perché in sintesi estrema, cari ascoltatori, almeno secondo me, questo è il nocciolo. L'Italia preferisce, e alcuni lo dicono anche esplicitamente, che il presupposto perché l'Europa capisca che la BRRD vada smontata, una volta presentate proprio in settimana le obiezioni italiane, cui come al solito è l'irretroattività della sua applicazione in caso di bail-in ai titoli se non emessi dopo il 1 gennaio 2016, eccetera eccetera eccetera, in attesa che l'Europa capisca, intanto siamo riusciti a far dire alla BCE e al Single Resolution Board, come diceva Carlo Alberto, che i presupposti della Banking Union non valgono, perché noi continuiamo a preferire il bailout, cioè i soldi messi dal contribuente. Questo a me pare la cosa più significativa. E Mario, cosa ti aspetti dal decreto? Che si inoltrino nella via, come sembrerebbe, ascoltando il MEF, di un accordo con Intesa semplicemente dicendo qualcosa dovete cacciare di capitale per evitare che poi vengano a dirci che vi diamo l'aiuto di Stato a voi, vediamo di trovare l'accordo, e quindi ci inventiamo una nuova LCA per l'ennesima volta, ci inventiamo una via nazionale diversa dalla via nazionale. Tu te lo aspetti o vedi dei rischi enormi a una strada di quel genere? Ma io come contribuente mi auguro che il cartellino del prezzo sia il più contenuto possibile. Mi rendo conto che è un augurio, come dire, piuttosto così debole rispetto a quello che ci aspetta. Mi auguro che possa pagare qualcosa Intesa, ma se Intesa dicesse di no, che succederebbe? È chiaro che in questa vicenda Intesa ha la mano forte di carte, ma perché siamo arrivati a questo punto? Chiediamoci questo. E poi, scusami, ma in tutti questi anni in cui, a partire dalla Banca d'Italia a finire con gli editorialisti, tutti hanno chiesto a gran voce una bad bank pubblica, adesso ci stiamo arrivando, una bad bank per ogni istituto dissestato, e il che è, sinceramente, diciamole, chiamiamo le cose col loro nome, questa è la morte della BRRD, ma non è solo la morte della BRRD, è il preavviso di dissesto dello Stato italiano sotto il peso dei salvataggi bancari. Questa è una cosa di cui dovremmo minimamente essere consapevoli, certo. Tutti. Ci aspettiamo magari un rimbalzo dello spread del lunedì mattina, mi sembra ragionevole, perché se la strada non è questa. Guarda, no, ti dico, però oltre agli errori fatti dalla BCE e dalla Commissione Europea, che io sono il primo a riconoscere, questo è veramente il tentativo italiano, secondo me, riuscito di liberarsi dai vincoli disciplinari, e questo non è solo la morte o il fatto che la BRRD è ferita gravemente, ma è anche probabilmente la morte del tentativo di arrivare all'unione bancaria compiuta, perché se noi continuiamo ad assumerci questo stock di debito pubblico, ma secondo voi i tedeschi accetteranno mai che si arrivi alla garanzia europea sui depositi bancari? Cioè, noi stiamo progressivamente trincerandoci nel nostro fortino, stiamo scavando il fossato rispetto alla disciplina europea. Quando sarà il momento, ci faremo esplodere da soli dentro il nostro fortino. Alla fine il bail-in avverrà, sapete su cosa? Sul debito pubblico nazionale. Va bene. Sul debito pubblico nazionale. Io volevo però tornare da Fabio un secondo e chiedergli se invece cosa si aspetta dal decreto rispetto alla continuità dei correntisti e dei rapporti con le imprese. Bella domanda, devo dire, Fabio. Devo dire che non ho le risposte, ma temo che le risposte non arrivino così velocemente. A meno che il decreto stravolga il testo unico bancario e il funzionamento con la nomina dei commissari, come dicevate prima. Quindi, dando per scontato che i depositi al di sotto dei 100.000 sono tutelati, tutto il resto è un grandissimo punto di domanda. Fra l'altro ci anche sono se, ripetiamolo, aspetta, ti interrompo solo per ripetere ai nostri ascoltatori quello che hai appena detto. In teoria, cari ascoltatori, come sta dicendo Fabio Bolognini, uno prende il testo unico bancario per le parti che riguardano la liquidazione, cioè l'articolo 83, 84, 85, sono quelli, ed è tutto scritto, cioè non ci sarebbe niente da inventarsi, tranne che abbiamo, ohimè, la sensazione che niente di tutto quello che c'è scritto lì nel TUB dovrebbe trovarsi nell'accordo che in via di formazione ci annunciano tra Intesa e IMF. Vabbè, vedremo sto decreto, noi ci sentiamo dopo un giornale radio. Della belva. Pagate, allora, pagate e tacete. Come commentano? Pagate! Come commentano i nostri ancora, ascoltatori? Ancora, ancora. Tenete ancora. Buono, sei un professore, sei un accademico. No, ma qui con te mi sa sarà per una contaminazione. C'è mica il virus anche tu che me lo trasmetti? Io di sicuro ho tutti i virus del mondo, questo non c'è qua dubbio. Ci scrivono tutti contenti, ma, no? Ma per esempio sono contenti, andato contenti, guarda che meraviglia. A farmi un vaccino contro quattro ceppi di meningococco proprio questa settimana, perché non solo vacciniamo i nostri figli, ma la piccola è ancora non tutelata. Io vado tutti i giorni in metropolitana, eccetera. Mi sono detto che senso ha, prima di aspettare di farlo anche a lei, intanto lo faccio anch'io, quindi mi do il mio contributo alla sicurezza della mia famiglia. Non voglio più entrare nell'argomento di impancarmi a dibattito pubblico, perché no, lascia stare, è diventata una cosa Però abbiamo dei bei messaggi che dicono: ma non siete gufi, cari amici del Conte della Belva, no. Siete degli inguaribili ottimisti, avete capito, no, che l'Italia è fascista dentro. Come fascista dentro? Direi che sta socialista. Ma infatti, no, comunque, era esatto. Comunista? Ma nazionalsocialista? Bravo, sì, proprio così. No, infatti parlano di socialismo bancario qua stamattina i nostri ascoltatori. E direi che è interessante i messaggi che ci mandano. Dicono qui l'unica cosa divertente, scrivono, è che ad agosto, quando dovranno convertire il decreto, il Parlamento dovrà lavorare. Effettivamente, se il decreto esce domani, dovranno lavorare fino al 25 agosto, quando ovviamente la gran parte degli italiani saranno con le chiappe al sole e non capirà bene l'ammontare dello sberlone. Tutto in cavalleria, va bene così. Almeno sta soddisfazione di far lavorare il Parlamento il 25 d'agosto, ce la prenderemo con le Hawaiianas al allora sole. Io segnalo, per esempio, che apprezzo di più di questa maniera vischiosa, appunto uso l'aggettivo vischioso, Cognazio, vischioso, 50 sfumature di vischio. Preferisco per esempio chi apertamente dichiara di voler abbattere le regole europee, perché non ci si ritrova, non perché è un eversivo. Per esempio l'intervista di Massimo Mucchetti a Repubblica dice: il governo doveva sfidare Bruxelles, cioè dirlo, io gli do gli aiuti di Stato e vado avanti, come hanno fatto i francesi, che non si sono fatti fermare il solito. Bene, almeno Massimo Mucchetti, dal mio punto di vista, io non condivido le sue posizioni, ma almeno ha il pregio di dire esattamente, esatto, quello che pensa. Esatto, di prendersi la responsabilità. Questi no, perché, Mario, l'impressione che ho io, detta fuori dai denti, io non ragiono che alla BCE, alla Single Resolution Board siano impazziti e non capiscano, ma dai, non possiamo ragionare che il mondo è pieno di cretini, noi siamo intelligenti. Io mi sento cretino rispetto a ciascuno di questi. Quello che temo io è che il giudizio politico tra Macron e Merkel, che tra di loro parlano certamente nei vertici a due del dopo Draghi e della BCE, è che nell'Europa, esatto, nell'Europa cerchi concentrici di collaborazione più stretta, per quello che riguarda l'unione bancaria, prendano atto. L'Italia, certo, non ci vuole stare, contesta le regole, preferisce far pagare i contribuenti, perché lì i contribuenti vengono convinti dalla Banca d'Italia e dal governo che è meglio per loro e non protestano. E sapete che c'è? Sganciamo il vagoncino e andate per i fatti vostri. Esatto. Questo è quello che te siamo io. Un vagone sganciato su un binario morto, quello, caro Mario, che questo io. È quello che siamo. Dopodiché, e tutti contenti, ma è quello che diciamo, no? Quello che diciamo, noi ci facciamo esplodere in una stanza di cemento armato, alla fine il danno sistemico sull'eurozona sarà pressoché nullo. Il danno è solo nostro. Ma però è, noi è siamo una stanza felici. O un letamaio? Dai. Sentiamo Vittoria da Milano, che cosa ci vuole dire intervenendo. Vittoria. Buongiorno. E complimenti, perché è molto istruttiva e interessante la vostra trasmissione. Grazie. Senta, io volevo dirle, non so se è in correlazione, ma io ho ricevuto una lettera dalla Banca Intesa, sì, in cui mi si fa vedere una tabellina dove i conti correnti aumentano il loro costo. Già. E la tabellina è, non so, da 1000 a 2000 di deposito, da 2000 a 3000, insomma, a me mi ha messo nella categoria da 5000 a 6000, sì, che tra l'altro non supero mai la cifra di 5000, anzi sono inferiore. È un conto da pensionato, sì, è un conto dove praticamente io faccio tutto col banco, ma non. E la banca le dice: guardi che noi abbiamo aggravato la commissione. Da 2,20 a 2,40, lei adesso ha un costo mensile di 5,75. Sì. Allora io ho chiesto spiegazioni, sì, e la spiegazione è stata che siccome la BCE richiede alla banca un costo per il denaro in deposito, io devo pagare di più. Ecco, questo è quanto. Non so se questo è un anticipo dei costi che saranno addebitati a noi per l'intervento della Banca Intesa sulle banche. Allora, aspetta, distinguiamo, perché per recuperare parte dei soldi dei vari schemi cooperativi, tutti i soldi bruciati, tutti presentati ogni volta come la vera soluzione italiana al tema, compreso Atlante, i 4 così miliardi di euro, allora, di Atlante spariti ieri le sera. Banche, in maniera diversa, abbiamo parlato più volte, hanno proceduto anche ad aggravi di commissione. Nel suo caso, quella voce invece si legge diversamente. Si legge diversamente perché è collegata alla struttura dei tassi negativi sui depositi repo in Europa. Sarebbe da vedere, ci dovrebbe mandare il pezzo di carta per vedere se la banca non ci sta giobbando un pochino, perché la cosa non dovrebbe avere in realtà un significativo costo aggiuntivo rispetto agli impieghi e alla clientela. Comunque le do due dati, Mario, signora. Mario, di. Aggiungo aggiungo un'altra cosa. Inoltre, ogni emissione di assegno, che io ne farò 3 o 4 all'anno perché ormai si usa sempre il bancomat, costa 1 euro. Questo non è proprio una bella cosa, per così dire. Signora, dovrebbe costare di più, glielo dico subito. Probabilmente intorno ai 50 euro, però questo glielo spieghiamo un'altra volta. No, le faccio notare non che fare queste battute che la no, gente... No, che battute? Guardo i conti delle banche. Le ricordo che l'Italia ha il record europeo di spese per le commissioni bancarie, che sono aumentate di quasi il 30% negli ultimi anni, quando in, per esempio in Olanda sono quasi crollate del 20%. E stiamo pagando con le commissioni bancarie, che sono aumentate solo l'anno scorso del 13-15% in media, e alcune banche addirittura raddoppiate, proprio per cercare di tamponare i costi di un sistema che non è più efficiente, oltre ad avere problemi patrimoniali, ha problemi di sostenibilità economica, che è una delle cose che ha detto ieri sera il Single Resolution Board, dicendo le banche in questione non hanno viability, cioè non hanno sostenibilità nel tempo. Sentiamo Ezio da Milano. Ezio. Buongiorno signori. Buongiorno. E grazie per farmi intervenire. Cambio un po' argomento, sì, col vostro permesso. Volevo chiedere a voi un pensiero, una riflessione su quello che è accaduto e sta accadendo sull'ILVA in amministrazione straordinaria. Ricordiamolo, no? Già. L'ILVA viene commissariata, diciamo, a giugno del 2013, io a luglio del 2014, dopo 18 anni e mezzo, esco dall'azienda e siamo arrivati fino a qua. Io sono uscito 3 anni fa con l'azienda che aveva 3 miliardi di euro in cassa, lo so perché lo so, e dopo 3 anni di commissariamento, prima col Bondi e adesso con i 3 signori, ha bruciato altri 3 miliardi, totale 6, più 3 meno 3 sì, fa 6. Sì, totale 6, però il costo totale ormai siamo a più di 15 miliardi, bene, più un punto di PIL, ma no, ma io la ringrazio perché lei solleva un tema che è fondamentale. E è così fondamentale che lo richiamo al fatto che la scorsa settimana noi abbiamo sollevato un problema che può rischiare di prendere la stessa strada, quella dei commissari di Alitalia. Abbiamo rilevato che il bilancio 2016 non è stato depositato. Io personalmente ho avuto ospite il ministro Calenda 3 mattine fa in trasmissione e gli ho fatto la domanda e lui ha detto verrà depositato. Nello stesso giorno gli uffici del MISE hanno risposto all'interrogazione dei 5 Stelle dicendo non verrà depositato da parte dei commissari. Glielo dico perché anche i commissari di ILVA hanno fatto perdere la visibilità perspicua di conti di una società che produceva utili a miliardi sotto la gestione privata, e quindi l'opacità regna sovrana, la distruzione di valore regna sovrana, i criteri con cui è stata fatta la gara per l'aggiudicazione, ne abbiamo già parlato, non hanno convinto per trasparenza. Quindi Ezio, lei ha perfettamente ragione, lo Stato è tornato a occuparsi della siderurgia, ricordiamo, dopo che negli ultimi 15 anni prima di privatizzare aveva bruciato la bellezza di 25.000 miliardi di lire in quella che all'epoca si chiamava la Finsider, sono negli ultimi 15 anni, e la prova che sta dando è una prova in linea col fatto che gestire non è il suo compito. Francesco da Pisa, che ci dice? Francesco da Pisa? Buongiorno, io volevo farvi una domanda relativamente al salvataggio, ai salvataggi bancari. Si parla del salvataggio del Monte dei Paschi con l'intervento del Fondo Atlante e altre banche minori con l'intervento del fondo interbancario. Ma nella realtà quanti soldi hanno queste società? Caro Alberto, quanti soldi ha il fondo interbancario? Il fondo interbancario è in bolletta sparata, anzi addirittura in perdita. Per tutelare, Mario magari si vuoi aggiungere tu, per tutelare i 100.000 euro garantiti entro qualche settimana, entro qualche mese, dovrà fare un esborso anticipato e quindi dovrà richiamare i soldi. Però mi faccio dire, quello del Monte Paschi non è un salvataggio, e allo stato attuale è una ricapitalizzazione precauzionale perché la banca è variable. Cioè è importantissimo distinguere queste cose qua, sono due strumenti completamente diversi. Monte Paschi cammina da sola, per fortuna la ricapitalizzazione serve a evitare che in uno scenario negativo avverso la banca abbia dei problemi, quindi il capitale viene costituito come riserva, ma la banca sta in piedi da sola, per fortuna, almeno fino ad oggi. Ma gli NPL dovrebbe comprare il Fondo Atlante. E vediamo a che prezzo, questo è il problema, dovranno essere venduti, se sanno un prezzo. Non ha i soldi. Infatti, Fortress e gli altri si sono ritirati. Prego Mario. Ma esatto, posso dire una cosa? Cioè, la vicenda di Monte Paschi si sta trascinando perché tutte le sofferenze vanno cartolarizzate, La tranche più rischiosa e quella intermedia vanno collocate in un contesto, tra virgolette, di mercato, mentre quella meno rischiosa, la senior, dovrebbe essere collocata con la garanzia statale mediante le cosiddette GACS. Però, siccome Atlante 2 non ha i soldi per acquistarsi da sola Bravo. Tutto lo stock delle junior e delle mezzanine, si è cercato un acquirente di mercato, ma Fortress, Elliott e l'altra, che mi sfugge in questo momento, hanno visto i dati, volevano uno sconto, si sono ritirati. Ora, il periodo di visione nella data room scade il 28 di giugno. Io vorrei semplicemente segnalare che fin tanto che non c'è questo dato, che si riconduce cioè all'acquirente di mercato per quanto riguarda le parti più rischiose delle sofferenze, l'operazione Montepaschi resta sospesa. E quindi, cari ascoltatori, ci vediamo dopo il 28, perché attenzione che la faccenda di Siena si può reincartare, per essere chiari. Torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci tornati qua in studio e facciamo una riflessioncina su un altro rilascio dei dati che è avvenuto in settimana da parte dell'Istat. L'Istat il 21 di giugno ha emesso 10 cartelle fitte di dati intorno al tema come funziona, quanto è efficiente, attraverso quale canale praticato con maggior successo la redistribuzione del reddito in Italia, che è una domanda più generale per farsi la riflessione sul tema. Ma il welfare italiano, che pure è molto oneroso, noi certo. abbiamo una spesa sociale che è in linea con quella europea, cioè noi abbiamo più di un quarto abbiamo 25 punti di spesa pubblica. Il problema è che ne diamo 16 punti alla pensioni, come certo. ricordato all'inizio della trasmissione, e quindi il resto su molte voci è fuori linea e sottopesato rispetto all'Unione Europea. Ma il punto è l'efficacia, cioè tra il reddito pre-intervento di fisco e contributi e il reddito successivo all'intervento di fisco, contributi e redistribuzione pubblica. Quanto è efficace nel ridurre nei quintili e decili di chi ha meno reddito lo stato di bisogno, di povertà assoluta, di povertà relativa, eccetera, eccetera. Ecco. E scopriamo che lo Stato fa lo sceriffo di Nottingham, cioè toglie ai poveri per dare ai ricchi. L'intervento dello Stato impoverisce i giovani e li espone ancora di più al rischio della povertà. Più è prima di dirvi quello che penso io vi dico solo che in settimana troverete probabilmente martedì sul Sole 24 Ore illustrata una proposta che avrà a seguire nei 10 giorni successivi interventi poi di dibattito a favore e contro, che l'Istituto Bruno Leoni, dopo uno studio di mesi che ha coinvolto diversi accademici, ha redatto per un'idea di generale convergenza delle aliquote IRPEF, IRES con abbattimento di IRAP residuo e IMU TASI, imposta negativa per i poveri, un'idea su come finanziare da una certa soglia di reddito in su la sanità. Insomma, c'è un'idea che comprende non solo la semplificazione fiscale, ma il punto di fondo, cioè quello della redistribuzione per chi ha meno, perché vedrete ben dettagliato la nostra opinione è che noi abbiamo un intervento della mano pubblica inefficiente su questo. Ma a noi è molto piaciuto un intervento che questa settimana, l'indomani, il 22 giugno, ha scritto il professor, proprio su questo tema, il professor Luca Pesenti, che è ricercatore di sociologia generale alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica, dove insegna sistemi di welfare comparati, appunto, ed è esattamente questo il tool, gli strumenti necessari per capire e interpretare i numeri dell'efficacia o meno della distribuzione del reddito nel nostro paese. Grazie di essere con noi, professor Pesenti. Grazie a voi. Quali sono le sue impressioni? Le mie impressioni, come dire, in realtà sono da molto tempo che quello che avete appena detto voi, cioè che c'è una spesa che è molto concentrata, come tutti sanno e come tutti dicono, su pensioni e sanità, che si portano via il 93% più o meno della nostra spesa sociale, e su tutto il resto non rimane niente, mentre nel resto d'Europa si viaggia tra l'80, l'82 e l'83 su questi due grandi voci, e sul resto rimane parecchio. La simulazione che ha fatto l'Istat ci ha dato degli elementi in più, perché noi abbiamo sempre saputo che l'Italia diminuiva il rischio di povertà tra prima e dopo l'intervento fisco più ridistribuzione welfare del 21%, mentre nella media europea questa diminuzione di più del 33%, e peggio di noi fanno solo Grecia, Romania e Lettonia, tanto per intendersi. Noi sapevamo questo, l'Istat adesso ci ha fatto un magnifico servizio, diciamo così, facendo questa simulazione in cui ha isolato gli elementi relativi alle fasce d'età che guadagnano di più o di meno da questo combinato disposto di tasse più redistribuzione della mano pubblica, e delle tipologie familiari, e su questo io sono... Luca, se posso, proverei a leggere proprio il testo dell'Istat. Il sistema di tasse e benefici determina per le fasce di giovani più giovani della popolazione un aumento del rischio di povertà. Dopo i trasferimenti e il prelievo, il rischio di povertà per i giovani aumenta dal 19 al 25% nella fascia dai 15 ai 24 anni e dal 17 al 20% in quella dai 25 ai 34 anni. Cioè noi fino a 35 anni usiamo lo Stato per impoverire i giovani. No, non so se questo è chiaro, e vorrei che su questo commentassi. Sì, questo mi ha molto impressionato, perché diciamo, se la diminuzione dal 74 di rischio al 12 sugli anziani è quello che dovrebbe fare, esatto, il di welfare, cioè, è il suo mestiere, naturalmente, quello che fa sulle fasce più deboli non è affatto il suo mestiere, anzi, quello che fa sulle fasce più deboli, adesso non so se diciamo la vostra immagine molto iconica di rubare ai poveri per dare ai ricchi, non so se è esattamente così, ma certamente c'è un prelievo che crea un disagio generazionale molto forte. Perché è addirittura dai 44 anni in giù, l'ha scritto anche lei, che non c'è più nessun effetto di riduzione della povertà con l'intervento dello Stato. Dai 44 anni in giù. Esatto, ci guadagnano solo dai 45 anni in su. Il problema è che adesso io, quando ho scritto sul foglio, la logica era di arrivare fino a quel punto lì, ma effettivamente il problema è che se in Italia il problema numero uno in assoluto che abbiamo è un problema di tipo demografico, sì, con questa struttura della distribuzione certamente è disincentivata la natalità, non c'è dubbio, perché chi deve fare figli è quello che poi ci perde nel confronto con tasse e redistribuzione, e quindi al netto i più resistenti modelli di tipo culturale, perché non si fanno figli solo perché ci sono soldi o meno, ma perché li si vuol fare, eccetera, eccetera, al netto di tutto ciò non c'è dubbio che qui abbiamo un elemento che ci dice anche perché sotto i 40 anni non si fanno figli. Però un paese nel quale è chiaro da decenni, almeno chi si occupa di aggregare, disaggregare e interpretare le cifre pubbliche, che, come dice la sua formula dall'articolo del foglio, troppo per gli anziani, poco per le famiglie, quasi niente per i giovani. Come diavolo è possibile, in termini, ripeto, comparati, ci sono dei paesi che hanno avuto l'esperienza di dare delle grandi aggiustate di riallocazione tra voce e voce le spese del welfare, certo, e anche di fare revisioni generali, proprio generali in termini di punti di PIL, paesi avanzati del mondo occidentale. Allora, se uno guarda a quelle esperienze, perché questo è avvenuto in Nuova Zelanda, è avvenuto in Australia, è avvenuto in Canada, con modelli diversi, sia con i socialdemocratici che con i conservatori, è avvenuto anche nel nord Europa. Ma detto questo, che cos'è che manca per attivare una di quei processi che altrove si sono manifestati A, possibili, e B, con dei risultati concreti? Allora, quei modelli lì vanno tutti sotto la voce del processo di ricalibratura, termine complicato che dobbiamo a Maurizio Ferrera, il politologo, che ha appunto segnalato come già da molto tempo noi avremmo bisogno di fare questa ricalibratura, cioè spostare dai vecchi rischi pensione e sanità, il welfare è nato sui vecchi rischi, certo, pensioni, sanità, eccetera, hai tutti i nuovi rischi, le nuove povertà, la conciliazione famiglia-lavoro, la piaga delle non autosufficienze in un paese che invecchia, l'housing sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Gli altri paesi sono riusciti a farlo. In realtà la ricalibratura non è mai una faccenda facilissima, no, perché ricalibrare vuol dire comunque creare scontento, certo, sociale. Ok, allora, però certamente c'erano paesi che partivano da una situazione migliore della nostra come squilibrio e sono riusciti ad aggiustarla un pochino. La cosa secondo me drammatica del nostro paese è che se noi andiamo indietro di 30 anni, i dati del 1990 sulla proporzione a 100 della nostra spesa sociale sono quasi identici, sì, a quelli di oggi. Noi siamo di un comportamento inerziale spaventoso, stratosferico. No, solo che dal 90 al 2017 è cambiato il mondo, ma il cambiamento della struttura della spesa non è cambiata. Perché? E beh, evidentemente perché noi abbiamo, adesso io qui come dire faccio delle congetture, sì, è anche complicato arrivare fino a lì, ma certamente la strada italiana è stata quella di non creare conflitto sociale e quindi, fatto salvo qualche taglio sulla sanità, anche in effetti la spesa sanitaria è diminuita di 2 o 3 punti in rapporto a 100 delle politiche del complesso delle politiche di welfare, quindi sulla sanità qualcosa abbiamo tirato giù. Quello che abbiamo tirato giù l'abbiamo messo più o meno sulla disoccupazione, che è aumentata di 3 punti in questi anni di crisi. Sì. Il problema è che sono le pensioni che sono, sì, sostanzialmente rimaste allo stesso livello. Perché? E torniamo al punto, perché con questo stallo demografico tu hai sempre meno giovani, sempre più anziani, quindi anche se tu contrai, come dire, diminuisci la spesa pro capite, tu aumenti la base e hai bisogno sempre della stessa spesa, più o meno. La cosa drammatica è che i dati del MEF proiettati in avanti di un po' di anni ci dicono che questo modello di distribuzione dei costi sarà identico anche tra 10 o 20 esatto, anni. E quindi ci schiantiamo, Luca, questa non so, ci schiantiamo, non lo so, però certo diventa sempre meno sostenibile, sempre meno sostenibile e sempre meno efficace l'intervento di distribuzione a favore di corti anagrafiche, famiglie che non si creano e di chi ha meno dei giovani. Io sottolineo a tutti che dopo aver speso 7 miliardi in ultima legge di bilancio in sostegni alle varie forme di prepensionamento, 7 miliardi, gli sindacati hanno già il nuovo obiettivo dichiarato questa settimana: no agli aumenti automatici per i prossimi previsti, di cui a 3 anni, previsti dai coefficienti automatici delle attese di vita, perché basta andare con l'età di pensione che accompagna automaticamente l'attesa di vita. No, bisogna tornare indietro, e che significa ulteriormente aggravare lo squilibrio nella distribuzione delle diverse voci della spesa sociale a favore delle pensioni e contro tutto il resto. Grazie intanto al professor Luca Pesenti, torniamo tra un minuto. Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle messe. Conti della Belva. E sulle note di Nino Rota e di Fellini torna con noi Udo Gumpel. Grazie di essere con noi, Udo, come stai? Benissimo, anzi sono stato a Canicattì in Sicilia, ho fatto un servizio su questo gesto di questo ragazzo Marco Vinci, che ha protetto una donna da uno che la importunava, e quel tizio è tornato, l'ha coltellato questo ragazzo. Allora, mi è piaciuto molto questo fatto che un ragazzo della profonda provincia siciliana, che non me ne vogliano gli amici siciliani, dico profonda provincia, che abbia avuto un gesto così di gentilezza, di grande civiltà. E questo io sono andato là proprio per sottolineare questo gesto che viene dalla provincia siciliana, da Canicattì. Ecco, dunque, questo nice. Mi ha messo, naturalmente è triste vedere questo fatto, però che questo ragazzo per me va ricordato. Va ricordato, un gesto di grande solidarietà e civiltà. Ci associamo al tuo, alla tua scelta. Allora, noi abbiamo una domanda per te, Udo, perché questa settimana, anzi l'altro ieri, è venuto sotto gli occhi di tutti, insomma, la nuova intesa Macron-Merkel era visibile, tangibile, nelle modalità, ripresa la conferenza stampa congiunta, nel modo in cui Macron ha detto non abbiamo ascoltato l'Italia sugli immigrati, la Merkel gli ha fatto eco, citando anche l'Italia. Insomma, c'è un capitolo nuovo delle relazioni, grazie al successo di Macron, all'evidente esplicita reazione di gradimento molto elevata da parte della cancelliera. E la domanda che ti facciamo è, partendo però dall'intervento che BCE e SRB ieri hanno fatto sulla vicenda a cui abbiamo dedicato metà trasmissione, cioè quella delle banche venete, non è che nei discorsi a quattro occhi su quali nuovi capitoli procedere con l'Europa a cerchi concentrici, cioè a maggior cooperazione per chi la vuole, per chi la vuole, francesi e tedeschi dicono, sentite, sull'unione bancaria l'Italia è da quattro anni che è scassa al cazzo, che non vuole rispettare le regole. Ma dice che dice, tu, dice, adesso io non userei l'ho detto io, puoi dirlo in tedesco, un rottamato rotto. Dice, loro preferiscono la via che far pagare più i contribuenti, e se non gli tirano le pietre i contribuenti italiani, fatti loro. Andiamo avanti noi con regole comuni, gli italiani sganciamo il carrello, facciamoli, ma lasciamoli andare dove vogliono. È possibile o sbaglio? Naturalmente l'invito all'Italia di seguire, non di adeguarsi, ma di seguire le regole della comunità, che poi peraltro, io sono cattivo, hanno firmato tutto, qualsiasi cosa, sì, sì. No? Firmano qualsiasi cosa, no? E poi giurano, non so, adesso io non ho guardato le mani, i piedi incrociati, ma comunque giurano sempre fedeltà a qualsiasi cosa, tornano da Bruxelles, dalle riunioni, e poi qui a Roma, fatta la legge, trovata l'inganno. Io avevo imparato questo modo di dire qui in Italia, no? Che per noi è in pratica una roba assurda, però qui funziona perché fa girare le banche venete. E allora voi ne avete parlato molto, è chiaro che la BCE ha dovuto dire sì, fate come vi pare, però quello che naturalmente in questo paese purtroppo dismemorati non realizzano, che questi 31 miliardi che sarà alla fine il conto totale per il contribuente italiano rimangono ascritto nel bilancio all'Italia, non è che adesso la BCE caccia stampa, e sono debiti freschi italiani, no? E qui c'è un silenzio, certo che la Merkel ormai conosce questo andazzo, no? Io dico la mancanza totale di coraggio dei governanti italiani, e saranno anche questi qua prima o poi spazzati via dalla delusione, dalla rabbia, perché qualcuno anche qua capiscono che prima o poi pagano il conto, e naturalmente Macron e Merkel sono adesso una coppia trainante, e loro non escludono, quanto io capisco dai discorsi, mai l'Italia, invitano l'Italia a far ciò che promette, ciò che dice di voler fare, poi tornano, cioè forse bisognerebbe spostare gli italiani al nord e ripopolare, che ne so, io non so come si fa a convincerli di mantenere fede alle parole quando tornano, come si farebbe, no? È un compito improbo, qualche secolo di Machiavelli e qualche millennio di cattivi esempi dall'alto. Mario, vorrei fare un commento su Udo. Mario, ho sentito? No, stavo annuendo, diciamo, proprio al fatto che è palmare per chiunque guardi da fuori e non abbia gli occhi foderati di prosciutto, che noi ci stiamo caricando di debito. Altro non debito, lo stampa la BCE, tra un po' la BCE smetterà di stampare. E noi ci stiamo caricando di debito, quindi Udo dice una grande verità, che però di cui in questo paese, sulla stampa di questo paese, non c'è praticamente traccia, sì, però, oggi, che parliamo di salvataggio. Mario, ma la domanda vera, e oggi sono un po' scorato, depresso, perché mi pongo la seguente questione: è la stampa il grande problema? Sì, noi ce ne occupiamo ogni volta. Ma è anche, guardate, l'opinione pubblica, agli italiani, gli italiani vogliono, alla fine dicono più spesa, più debito, ma qual è il problema? Cioè, nella testa non ci siamo riusciti a farlo entrare questo problema, certo. In tanti e forse anni. Quel gancio di quel vagone l'abbiamo sganciato noi come società, capito, civile, esatto. Oscar, eh? I ceti dirigenti italiani, gli accademici, sono sempre pronti a sostenere che è meglio fare debito in più che meno nel nostro paese. Ma se hanno firmato perizie infirmabili, dai, Oscar. Ho capito. A me sfugge come possa essere preferibile la via della liquidazione coatta a quella dell'applicazione pro quota su debito subordinato della copertura delle perdite. A me sfugge, cioè, francamente non riesco a capirlo. Però, Mario, io ho l'impressione che sia largamente maggioritario. Se noi dovessimo fare un'indagine demoscopica, ma è meglio che lo paga lo Stato o meglio, la risposta sarebbe: è meglio che lo paga lo Stato, cioè noi. Tu pensi di no, Mario? No, ma è proprio questo, deriva dal fatto atavico che risale all'Unità d'Italia. Adesso non voglio fare il sociologo, lo storico d'accatto, da strapazzo, però lo sono. Noi siamo abituati come comunità nazionale a vedere lo Stato come altro da noi, come una controparte che cerca di fotterci, e noi dobbiamo fottere lui. Noi dobbiamo fare questo free riding, no? Per cui il denaro dello Stato non è il denaro mio, cosa che invece vale per altri paesi sicuramente dove hanno un senso di comunità differente come la Germania, ma anche quasi tutti gli altri paesi europei, no? Magari quelli che non hanno lo stesso senso del denaro come collettività nazionale sono nella merda fino al collo. Vogliamo fare nomi? Grecia? Non lo so, no, vogliamo trovare delle parentele? Questo è il punto, affinché noi continueremo a guardare lo Stato come una controparte da fottere per non essere fottuti, noi siamo condannati al fallimento. Dopodiché, Oscar, tu sei scorato, io sono scoglionato come raramente mi capitava da anni a questa ma parte. Ma che strano. Dopo quello che è successo nelle ultime 48 ore, dopo quello che ho letto e continuo a leggere in queste ore. Scusate, ma veramente io faccio fatica a tenere il registro dell'ironia che è caratteristico di questa trasmissione. Faccio molta fatica oggi. Va bene, allora Udo, tu ce l'hai qualche consiglio su come farci diventare meno machiavellici? Ma secondo me, adesso non lo voglio dire, ma credo che la strada è quella che dovresti guardare effettivamente una volta nel baratro, no? Cioè tipo un piede veramente sospeso in aria. È quello che l'Italia quando si è tirato fuori dalle situazioni drammatiche, che era passata per disastri veri, ho capito, no? Quello dici, certo. Quando stava veramente messa in una situazione che non aveva più alternativa, quando queste chiettose bugie autoconsolatorie che fanno la maggiore, che convincono tutti, non è che adesso nel mitico nord-est dei leghisti laboriosi che hanno creato questo, il maggior buco della storia recente, perché sembra proprio il Monte Paschi di Siena, è proprio da dilettanti, poi c'erano ancora privati che ci hanno messo dei soldi, no? Non tiene il paragone neanche con le banche della Boschi e Etruri e compagnia bella, quelle sono veramente inezie a confronto di questa situazione che andava avanti da 10 anni, non è che adesso è nato di notte questa cosa. Il paese sta guardando come se non la riguardasse. Bravo. Questa storia. Purtroppo. Questa è la cosa che non è che adesso c'è una ondata di veneti che se la prendono con i padroni di quelle banche, che peraltro naturalmente Zanon è già divenuto nulla tenente, no? Mentre i suoi vini, le sue uve si crescono. Vendono a 130 milioni all'anno in tutto il mondo, no? Questo, che amarezza. Cioè, cosa ha causato nella testa della gente? Nulla. Contentezza, cioè, poi noi ci troviamo l'addizionale IRPEF e tutto l'ambaradam di cose. Ma perché, Udo, stai dicendo semplicemente perché non c'è stata l'insurrezione? Perché per 15 anni, non per 10, come documentato anche dalle cose ufficiali, lì il denaro è costato molto meno che nel resto d'Italia grazie al credito relazionale, perché lì gente che non poteva permettersi se non, e lo dico con profondo rispetto, se avesse lavorato duramente un trattore, ha iniziato ad avere le Audi gratis e così via, e questo purtroppo i veneti un po' si vergognano, certo. E se lo ricordano perché lo hanno visto. Il tasso di crescita dei crediti bancari era triplo rispetto al medio del paese, ricordiamo, sono cifre e continuava imperterrito. Tradotto, tutte le associazioni, i cosiddetti corpi intermedi di rappresentanza delle imprese erano tutti dentro in questo sistema qua, ecco, ohimè. Allora, un abbraccio grato a Udo Gumpel. L'ultimo, perché ormai il treno è partito e noi siamo col vagone sganciato. Noi resteremo Udo! Con Udo a bordo, non vi preoccupate, torniamo tra un minuto. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta con il nostro imprenditore, gestore, manager, organizzatore di campagne di concerti. Ha sostituito la sua impresa con l'arena, praticamente una specie di arena in permanente esercizio, praticamente cambieranno settore. Certo. Io c'ero Renato Cifarelli. C'ero alla festa della Cifarelli 50s, c'erano più spettatori che zanzare, che detto di Voghera. Beh, detto è una Voghera cosa straordinaria, è una notizia da verificare. Allora, i cinquantennio, vedi che poi è così difficile fare impresa, ma in realtà ci sono eroi che riescono a farla, a continuare ad aspettare sempre di più. Buongiorno. Non parla troppo bene di me, che poi sai che non ne vale la pena. No, ma non è questione. È questione che abbiamo un po' tutti il morale sotto i tacchi per via delle vicende in corso venete. Pensa, Renato, che oggi porto Oscar nella tana del lupo a parlare con l'agenzia delle entrate di tecnologie di scambio dati tra imprese e consumatori. Nota bene, Renato, che lui porto Oscar. Nota bene che lui mi fa da accompagnatore all'andata e non è previsto un ritorno. Quando ci ho pensato, ho detto ho preparato un carro funebre, Oscar, della Mercedes. Oscar, ti hanno comprato le manette, quelle rosa di sì, perché passiamo dai bond al bondage. Ecco, capisci? Vabbè, va bene, allegria. Allora, oltre ai festeggiamenti. No, al di là dei festeggiamenti, mi ha fatto piacere che è venuto Carlo Alberto, qualcun altro della... Tu non sei venuto, ma ti perdoniamo per questa volta. Dai. Esatto. Senti, invece io leggevo stamattina i giornali e noi stiamo parlando tanto di banche italiane, però leggevo delle banche cinesi che stanno dando un'occhiata a tutti i debiti che hanno le aziende che stanno facendo acquisizione all'estero. Già. E io non vorrei parlare tanto del fatto che le banche cinesi, perché poi lì sai che sono nel 90% regolamenti interni politici. Beh sì, poi lì infatti è la campagna anticorruzione di Xi Jinping. Esatto. È tutta una questione di amici miei o amici tuoi che vanno ad espandersi all'estero. Però quello che mi premeva capire è che con questa situazione delle banche mi sto chiedendo dove le medie aziende che si stanno espandendo e vogliono fare acquisizioni andranno a prendere i soldi, perché in Cina parliamo di decine e decine e decine di miliardi per comprare tecnologia all'estero, per espandersi sui mercati internazionali, per fare tutte queste cose qua, e qua parliamo di decine e decine di miliardi per salvare del capitale di rischio, perché poi la cosa che poi nessuno dice è che se tu investi in un'azienda, non mi interessa che sia una banca, ma fallisce, è capitale di rischio, quindi tu lo puoi perdere. Io mi aspetto che la prossima volta che fallisce un'azienda privata che è quotata in borsa, tutti gli azionisti vengano a questo punto salvaguardati, se vogliamo salvaguardare quelli delle banche, salvaguardiamo anche quelli privati. Ma è un ragionamento provocatorio il tuo. No, non è un ragionamento provocatorio, perché si chiama capitale di rischio. La gente si dimentica che si chiama capitale di rischio. Ma non leggi abbastanza bene le audizioni. Il rischio è dello Stato, il rendimento d'Italia è privato. Noi distinguiamo rischio e rendimento. Capito, non questo leggi è il concetto. Bene. La banca è un presidio di fiducia, non è mica un'impresa come la tua. Tu puoi fallire, chi se ne frega. La banca va sostenuta con i denari di Stato, ci mancherebbe altro. La Banca d'Italia dice sempre che fino a che ci ha messo soldi di Stato lei tutto andava così bene. No, perché poi quello che io contesto, se mi è consentito, è proprio questo. Cioè, allora, se da un lato sono per la salvaguardia del risparmio, e quindi tutte le regole che già esistono. Però quando parliamo di capitale di rischio, è capitale di rischio. Ma il vero problema è se tutti i soldi che le banche hanno vanno a risolvere i problemi di NPL, le banche che stanno fallendo e tutte queste cose qua. Chi rifinanzia le aziende che volessero fare acquisizioni contro i colossi cinesi che invece hanno fiumi di denaro che scendono e arrivano e ti offrono una pacchetta. Però non aspettartelo dalla banca, dovranno nascere, spero crescere anche i fondi di private equity, speriamo che in questo senso quel residuo d'Europa che ci rimarrà con la Capital Market Union effettivamente ridistribuisca il bancocentrismo italiano, a parte che andiamo avanti così le mettiamo in liquidazione metà, quindi, e guarda, ti devi aprire, non so se tu l'hai già fatto ovviamente, però devi aprire il capitale e devi chiedere ai fondi, perché sono gli unici che saranno pazienti. Sai che non devi parlare con me, perché noi tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, io faccio il business angel, quindi esatto. Diciamo, In realtà, ecco, grazie Renato, perché hai posto un problema anche questo. Come Fabio Bolognini, i corni reali dell'impatto sull'economia reale sono questi, quelli segnalati da Fabio con le imprese ancora vive che hanno posizioni nelle due Venete in past due, unlikely to pay, che si trovano adesso barabam con un colpo alla tempia, e tutti a parlare di economia reale, ma tutti se lo sono dimenticato. È quello che dice Renato Cifarelli, ho capito. Ma noi, con questa grande bailout di Stato, a noi come imprese, ecco, queste questioni qua che sembrano improvvisamente dimenticate di fronte al coro di incensatori del regolatore italiano che preferisce la strada del denaro del contribuente. Bailout si traduce così: pagate voi, cari ascoltatori. Bail-in è no, paga chi ha preso un titolo e se lo hanno ingannato, se si dimostra mis-selling, allora sì, gli daremo un ristoro, ma solo per gli ingannatori. Invece no. Sapete perché? Perché i regolatori sono stati conniventi con chi ha piazzato tonnellate di quei prodotti finanziari, perché era un canale meno costoso per le banche di funding, perché se l'avessero venduto come dovevano agli investitori istituzionali non potevano strappare condizioni così vantaggiose. A stringere è questo il motivo per cui preferiscono oggi pagare coi soldi pubblici vostri, cari ascoltatori. Diffidate di chi dice il contrario. Grazie caro Alberto, grazie. Mario, grazie Renato, continuate con Radio 24, appuntamento come Alessandro Milan lunedì mattina alle 8:20. Italia, l'Italia, le mesta, le tempi.